Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si rompe anche la derivazione da un altro acquedotto. Messina torna senza acqua. 13° giorno di emergenza. Il governo manda l'esercito. Risolti questi altri problemi, il futuro va verso il ponte sullo stretto, dice Renzi. L'esecutivo dà intanto il via libera al decreto cosiddetto salva regioni. Il Papa durante la messa: i credenti non possono vivere da faraoni, la chiesa affarista non è al servizio degli altri. Secondo la Gran Bretagna è stata una bomba nella stiva a far precipitare l'aereo nelle Sinai. La scatola nera non fa luce sulle cause, l'Egitto trema per il colpo al turismo. Sabato shopping e spesa a rischio, scioperano per il rinnovo del contratto i dipendenti di supermercati e centri commerciali. Finalmente ci siamo, è il weekend che decide la stagione di MotoGP, si fanno i conti sui punti che servono a Rossi e su chi, per amicizia, potrebbe farlo passare. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Ed è dall'Italia che parliamo, con una vicenda della quale ci siamo sostanzialmente occupati nelle ultime due settimane, quasi continuativamente. A 13 giorni dall'inizio dell'emergenza, con la frana che ha investito la conduttura nella zona di Fiumefreddo, nel Catanese, ci sono problemi anche per la struttura che avrebbe dovuto rifornire parzialmente la città di Messina, una derivazione dell'acquedotto dell'Alcantara, il servizio. Per risolvere l'emergenza idrica a Messina, i cui abitanti da almeno 15 giorni ricevono l'acqua a singhiozzo, il governo manderà l'esercito. Lo ha detto al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dichiarato lo stato di emergenza, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, il quale ha annunciato un primo stanziamento per i lavori necessari e la messa a disposizione di mezzi militari. L'azienda municipalizzata, che si occupa della fornitura idrica, presenterà intanto domenica al prefetto un piano di intervento per la realizzazione di un nuovo bypass, in aggiunta a quello che oggi si è rotto, tra l'acquedotto dell'Alcantara e quello di Fiumefreddo. Il piano dovrebbe coinvolgere il genio militare dell'esercito, che si prepara comunque a intervenire nella zona dello smottamento a Calatabiano. L'unico acquedotto che rifornisce in questo momento la città, con una portata di 200 litri al secondo, è quello della Santissima, ma il fabbisogno è di 970 litri al secondo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la situazione di Messina, tra l'altro, non è un caso isolato. In Sicilia l'acqua viene venduta a peso d'oro, la percentuale di dispersione è più alta di molte altre regioni in Italia. La privatizzazione non ha migliorato il servizio, anche perché le gare d'appalto in molti casi non sono state trasparenti. Per fare un esempio, ad Agrigento il bando di gara vinto da Girgenti Acque valeva all'inizio 30 milioni di euro, poi dopo due aste andate deserte è stato aggiudicato a 5 milioni all'unica società che si era presentata. E Girgenti Acque si trova oggi ad operare senza certificazione antimafia. Valentina Furlanetto ha sentito Tiziana Toto, che è curatrice del dossier sulla dispersione e i costi dell'acqua di Cittadinanza Attiva. La Sicilia è una realtà nella quale si riscontrano dei costi molto più elevati rispetto alla media nazionale. Come media siciliana abbiamo 344 euro l'anno. Per quanto riguarda la dispersione, a Milano idrica, ad esempio, quanto è il costo annuo dell'acqua? 136 euro, quindi un terzo di quello che è si spende in media in Sicilia. Cioè la anche città, la dispersione è più alta in Sicilia rispetto alle città di altre regioni. In media la Sicilia si attesta a livelli di dispersione di circa il 50%, quindi dire di sì, ben al di sopra della media nazionale del 33%. Ci sono alcune realtà, come ad esempio la città di Ragusa, dove arriviamo addirittura al 76% della dispersione, significa perdere praticamente la maggior parte dell'acqua che viene immessa nelle tubature. Se si considera lo storico, no, gli ultimi 10 anni, è cambiato qualcosa? Un aumento dei costi in molte realtà, che sicuramente non è attribuibile ad un miglioramento del servizio, e non ci sono stati dei miglioramenti per quanto riguarda la dispersione idrica. Cambiamo argomento, ancora non vi è chiarezza su quello che effettivamente sia successo all'aereo della Metrojet partito sabato da Sharm el Sheikh diretto a San Pietroburgo e precipitato con 224 persone a bordo. Le scatole nere a quanto pare non potranno aiutare molto, mentre resta prevalente l'ipotesi della bomba. L'ipotesi di una bomba portata a bordo da un passeggero nascosta in un bagaglio caricato nella stiva del velivolo a causa degli scarsi controlli, così come teorizzato dagli 007 britannici e da Barack Obama, è solo una supposizione e non si tratta di un giudizio definitivo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, ribadendo che è in corso un'indagine nella quale non si esclude nessuna ipotesi a priori. Inoltre ha aggiunto: non sappiamo che dati usino i nostri colleghi britannici. Londra non ha condiviso con Mosca queste informazioni. Nel frattempo sembra che i dati della scatola nera recuperata dall'Airbus A321 della Metrojet precipitato sabato con 224 persone a bordo non aiutino a stabilire le cause del disastro in Sinai. Ma anche su questo il portavoce del Cremlino ha detto che bisogna credere solo alle informazioni che partono dalle fonti ufficiali dell'inchiesta. Intanto era appena iniziato il rimpatrio dei turisti britannici bloccati a Sharm el Sheikh con l'indicazione di poter portare a bordo solo il bagaglio a mano, quando le autorità egiziane hanno deciso di rinviare i voli per imprecisate questioni logistiche. Il ministro dell'aviazione civile egiziano Kamal ha precisato di aver chiesto ad EasyJet non uno stop ma solo una limitazione dei voli e di organizzare per oggi 8 voli anziché i 18 richiesti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E delle questioni che riguardano il turismo in Egitto si è parlato questa mattina a Cuore e Denari. Sentiamo l'intervento di Pier Giorgio Reggio, che è direttore commerciale turismo di Blue Team Travel Group, intervenuto proprio su questo, che ha sottolineato le difficoltà del settore turistico italiano proprio su questa destinazione rispetto al passato. L'ultimo dato di queste ultime settimane prevede una presenza di circa 1300 passeggeri su Sharm italiani, quindi un dato infinitamente basso, inferiore rispetto a quelli che sono i dati storici del traffico degli italiani su questa destinazione. Purtroppo stiamo vivendo un momento molto difficile per questa destinazione, che ha fatto la storia per il mercato turistico italiano, raggiungibile in 4 ore, con un clima che ci permette di effettuare una vacanza di mare nei 12 mesi, con un prezzo decisamente accessibile e con un'offerta veramente variegata. Quindi è una destinazione che per il mercato e per il settore del turismo è veramente fondamentale, sia per volumi che per passeggeri movimentati. Queste notizie, insomma, non promettono nulla di buono né al settore né alla destinazione, ma dobbiamo avere la cautela di non prendere decisioni affrettate senza avere delle informazioni ben precise. E di questo, della vicenda dell'aereo, così come delle questioni di Messina, torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione. Sulla vicenda dell'aereo torneremo a parlare di sicurezza e per cercare di capire quali buchi possano esserci stati proprio nella sicurezza all'aeroporto di Sharm el Sheikh. Spostiamoci in Vaticano, dove oggi il Papa è tornato a parlare e con riferimenti piuttosto chiari alle vicende delle ultime ore. Nella Chiesa ci sono questi che, invece di servire, di pensare agli altri, di gettare le basi, si servono della Chiesa. Gli arrampicatori, gli attaccati ai soldi. E quanti sacerdoti, vescovi abbiamo visto così? È questo l'amaro sfogo del Papa durante la messa a Santa Marta, parole particolarmente significative nei giorni del nuovo Vatilix. Quando la Chiesa, spiega Francesco, è tiepida, chiusa in se stessa, anche affarista, tante volte non è al servizio, bensì si fa servire. D'altronde, aggiunge il Papa in un'intervista ad un giornale di strada olandese resa nota oggi, se un credente parla della povertà o dei senza tetto e conduce una vita da faraone, questo non si può fare. Il pontefice pensa anche ai tanti beni della Chiesa, che spiega sono molti, ma li usiamo per mantenere le strutture, le tante opere che si fanno nei paesi bisognosi. Questione tuttavia all'ordine del giorno e che assicura ai più stretti collaboratori presto sarà affrontata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia appena arrivata dalle agenzie, una notizia di cronaca italiana: un detenuto che doveva sottoporsi ad un esame sanitario mentre era in ospedale a Lecce ha rubato la pistola ad uno dei due agenti di polizia penitenziaria che lo accompagnavano e ha cominciato a sparare all'impazzata. Gli agenti, che erano due, sono rimasti feriti in maniera lieve. Ha rubato un'auto e armato è fuggito sfondando le sbarre all'ingresso. Sono in corso ricerche, vi aggiorneremo appena ne sapremo di più. Intanto Ci spostiamo a Palazzo Chigi, dove il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, oltre che allo stato d'emergenza per Messina e per la questione dell'acqua, come vi abbiamo detto pochi istanti fa, al decreto salva regioni, mentre alcune parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi riaprono le porte al ponte sullo stretto e presumibilmente ad infinite polemiche. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Poco meno di un'ora di confronto all'interno dell'esecutivo e poi il disco verde al provvedimento. Una norma spiega un comunicato di Palazzo Chigi che consente di chiarire la contabilità delle regioni, un tema sollevato da Corte dei Conti, in particolare per i debiti passati. Il decreto, lo ricordiamo, nasce per il Piemonte e poi per altre realtà per sanare il problema della valutazione in bilancio delle anticipazioni dello Stato per pagare i debiti della pubblica amministrazione dopo l'intervento della Consulta. Una sentenza questa che apre un buco da 5,8 miliardi per la regione guidata da Sergio Chiamparino, che ha presentato e poi confermato le dimissioni da presidente della Conferenza delle Regioni. Regioni che continuano intanto nel loro pressing sulla legge di stabilità, non solo per il fondo per la sanità. Più in generale i governatori lamentano tagli alla spesa corrente del 2016 per 10 miliardi. Via libera poi dal Consiglio dei Ministri ai due decreti legislativi che recepiscono la direttiva europea sul meccanismo di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, il cosiddetto bail-in. Infine un argomento destinato storicamente a far discutere, lo ricordavi Simone, il ponte sullo stretto di Messina. Renzi, nelle anticipazioni del libro di Vespa, annuncia: il ponte si farà, ma prima di discuterne sistemiamo l'acqua, i depuratori e le bonifiche. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. Questo il fronte del governo oggi, ma c'è tutto un fronte dell'opposizione, soprattutto la destra e il centrodestra, che si preparano alla manifestazione convocata da Salvini per domenica. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, il centrodestra è di nuovo unito sul palco di Bologna e di fatto però all'endorsement di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini come leader. Ci sarà anche il cavaliere alla manifestazione proposta dalla Lega contro il governo, la cosiddetta Blocca Italia. Non potevamo restare indifferenti dinanzi alle pressioni dei nostri elettori che in questi giorni hanno chiesto una dimostrazione di unità, scrive l'ex cavaliere, che annuncia anche un coordinamento dell'azione parlamentare di Forza Italia e Lega Nord contro la legge di stabilità. Contento ovviamente il leader della Lega per un'opposizione compatta, dice Salvini, che potrà liberare gli italiani dalla sinistra delle tasse e dell'invasione. Critico ovviamente Raffaele Fitto invece, proprio per quanto riguarda la leadership del centrodestra. E c'è anche da guardare al centro-sinistra, perché Pierluigi Bersani critica chi lascia il Partito Democratico. Senza questo partito, dice l'ex segretario, non esiste il centro-sinistra, bisogna costruire un'alternativa dentro il PD. Nella legge di stabilità ci sono errori, ma c'è anche del buono. No però alla fiducia. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Per rimanere sulla politica, a Roma si ragiona sulle candidature a sindaco, su come stanno andando nei sondaggi in questi ultimi giorni i vari partiti. A questa è dedicata l'analisi del venerdì del nostro Daniele Biacchessi. E si è aperto il processo Mafia Capitale, la politica pensa alla grande sfida di primavera. I nomi dei candidati corrono liberi sul web e nelle stanze delle segreterie dei partiti. Alcuni si sono già palesati come Alfio Marchini, Giorgia Meloni, altri sono ancora da mettere in campo. Ciò che è certo e matematico è che se si votasse oggi a Roma, il 5 Stelle vincerebbe a man bassa con qualsiasi candidato e contro qualsiasi candidato. Il movimento di Beppe Grillo viene stimato dagli istituti demoscopici tra il 29 e il 33%. Analizzando i dati che emergono nella prima settimana del dopomarino, il crollo del PD pare verticale, come avevamo peraltro già anticipato un mese fa. La sua consistenza oscilla tra il 17 e il 20%. Per l'istituto di Nicola Piepoli, il 5 Stelle si piazza oggi al 29% contro il 20% del PD. Demopolis alza l'asticella e porta il 5 Stelle al 33% con il PD al 17%. Emerge comunque in tutte le rilevazioni di queste ultime ore che un'ipotetica lista civica guidata da Ignazio Marino prenderebbe più o meno la stessa percentuale di quella di un candidato del PD, 17% circa. E viene a galla che la spinta propulsiva del successo del 5 Stelle a Roma sarebbe l'elettorato della sinistra anti-renziana, che in mancanza di un progetto alternativo farebbe orientare le sue preferenze verso un candidato di Grillo. Scioperano domani i dipendenti di supermercati, centri commerciali, grandi catene di distribuzione, proprio il sabato. Come? commessi e cassieri, magazzinieri e capi reparto si preparano allo sciopero di domani in tutta Italia per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di categoria scaduto dal 2013. Da IKEA a Decathlon, dalla Coop alla Rinascente fino a UPI, Moviess, Carrefour, Coin, sono migliaia i supermercati e i negozi delle catene della grande distribuzione chiamate alla mobilitazione dalle sigle di categoria di CGIL, CISL e UIL. Nel mirino le aziende aderenti a Federdistribuzione, Confesercenti e Distribuzione Cooperativa, a cui viene chiesto di sbloccare le trattative per i rinnovi. Sindacati e lavoratori, si legge in una nota della Filcams CGIL, sono pronti a dare il via ad una lunga battaglia. Battaglia presente anche sui social con l'hashtag Fuori Tutti. E in assenza di segnali positivi per lo sblocco delle trattative, annunciano c'è già in programma un'altra giornata di sciopero, il sabato prima di Natale, il 19 dicembre prossimo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere questa prima parte della trasmissione, andare a sentire che cosa succede sulle strade, beh, ci prepariamo invece una giornata in pista, una domenica in pista, quella della MotoGP, il Gran Premio decisivo. Si fa anche qualche conto su quello che potrebbe succedere, insomma, Valentino Rossi non ha proprio la necessità di vincere, sentiamo. Bisogna attaccarsi a tutto, al cuore, alla provvidenza e perfino al Vangelo, che dice che gli ultimi saranno i primi. Ma in un altro mondo, non al Gran Premio di Valencia, dove Valentino, dopo che il TAS ha rigettato il suo appello, dovrà partire per ultimo. Il mio sogno era di lottare in condizioni normali, me l'hanno impedito, ha detto Rossi. Una batosta, puoi essere Valentino, aver vinto 9 campionati del mondo, ma risalire dal fondo una ventina di corridori è un'impresa disperata, che ha un suo fascino, ma è pur sempre disperata. Valentino ha 7 punti di vantaggio su Lorenzo e già si fanno tutte le combinazioni che gli permettano di farlo diventare comunque campione. La prima è che Rossi arrivi davanti a Lorenzo, oppure che non facciano punti né uno né l'altro, molto improbabile. E poi via via Lorenzo primo, Rossi secondo e avanti a scalare. Ma la vera domanda è: qualcuno farà passare Valentino in segno di amicizia? Qualcuno c'è, si fanno le liste sottovoce, ma l'ordine di Carmelo e Speleta, il boss della MotoGP, è che bisogna chiudere questa storia senza altri scandali, silenziare, sopire. E quindi anche gentilezze sospette non sono per nulla gradite. Insomma, si scaldino i motori, però dite quello che volete, ma che bel finale. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, faremo ancora un punto sulla situazione a Messina, cercheremo di avere degli aggiornamenti in diretta su come si sta cercando di risolvere la situazione, torneremo a parlare dell'aereo caduto nel Sinai, lo faremo con un esperto di aeronautica ed esperto anche di sicurezza aerea, anche qua per cercare di capire quale buco nella sicurezza ci possa essere stato, il traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che succede in Italia e nel mondo. Una dichiarazione di poco fa in apertura, un appello del ministro degli esteri olandese che dice: non andate a Sharm el Sheikh, non c'è sicurezza. Dalla Gran Bretagna si parla di bomba nella stiva dell'aereo precipitato, ne parliamo tra un attimo. Un detenuto che doveva sottoporsi ad un esame a Lecce ha rubato la pistola ad uno dei due agenti di polizia penitenziaria che lo accompagnavano, cominciando a sparare in ospedale. Due feriti lievi, ora in fuga. Si rompe anche la derivazione di un altro acquedotto a Messina, 13 giorni dall'inizio dell'emergenza, la città torna senza acqua, il governo invia l'esercito. Il Papa durante la messa, i credenti non possono vivere da faraoni, la chiesa affarista non è al servizio degli altri. Saluto Gregory Alegi, docente di trasporto aereo alla Business School della Luis Guido Carli di Roma, dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno Alegi e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, domanda che abbiamo fatto anche ieri al generale Tricarico, perché su questi temi si sta dibattendo, per così dire, tra la Russia e l'Egitto e le indiscrezioni invece che filtrano dal lato occidentale, per così dire, insomma, quindi Gran Bretagna e Stati Uniti. E parliamo ovviamente dell'aereo della Metrojet caduto sabato con 224 persone a bordo, partito da Sharm el Sheikh, diretto a San Pietroburgo, e la domanda è: Alegi, se da quel che ha visto e da quel che è riuscito a capire, secondo lei di bomba si è trattato o potrebbe essere un problema strutturale dell'aereo? Dunque, Mettiamo subito dei numeri. La fase di crociera è la fase più sicura. Su un volo di un'ora e mezza siamo in crociera per due terzi del volo, ma ci sono solo il 13% degli incidenti. Quindi quando succede qualcosa in quella fase deve essere un evento straordinario. Le perdite di contatto senza nessuna comunicazione tendono a indicare un evento esterno. Se c'è un'avaria, i piloti di solito hanno non solo il tempo di far qualcosa, ma di dirlo. Quindi quando spariscono gli aerei, il primo sospetto, la prima indicazione è quella di un evento traumatico. In questo caso lo possiamo tradurre come bomba. Ovviamente avere certezze è difficile, non solo perché le inchieste sono in corso, ma perché vediamo da giorni le stesse immagini in televisione e non abbiamo degli elementi concreti. Però chi sta lì, chi è sul posto, ha sicuramente avuto modo di vedere qualcosa. I punti sono due. Se fosse stato un cedimento strutturale, non ci sarebbero lamiere, come si dice in termine tecnico, estrofleste, cioè che vanno verso l'esterno, perché se c'è un'esplosione dentro, la pressione dall'interno verso l'esterno fa aprire l'aereo verso fuori. Quello che è arrivato sulla scena probabilmente l'ha visto. Noi non lo vediamo nelle immagini in TV, certo, ma chi è arrivato lì l'ha visto e ne ha probabilmente tratto subito un'indicazione, per quanto approssimativa, ma molto forte. Molto forte, evidentemente. E che cosa può essere mancato nell'ambito della sicurezza in un luogo generalmente così controllato come Sharm el Sheikh? Ricordiamoci intanto che a Sharm qualche episodio terroristico, non su aeroplani, c'era già stato in precedenza. L'area è diciamo delicata, si trova in una zona del mondo attraversata da tensioni, quindi dal punto di vista di uno scenario è tutt'altro che improbabile, purtroppo. Dal punto di vista concreto bisogna ampliare lo sguardo non soltanto ai controlli che io, lei e chi ci ascolta conosciamo molto bene ogni volta che viaggiamo, ma andare a vedere la sicurezza, diciamo, dell'intera struttura, il personale che ci lavora, l'eventuale recinzione aeroportuale. Ci possono essere tante maglie che sono diverse da quelle della bomba consapevolmente portata a bordo da un passeggero. Quindi in un aeroporto che è una superficie sempre di molte centinaia di ettari, che qualcuno possa infilarsi se la sorveglianza non è stretta è purtroppo tutt'altro che inimmaginabile, soprattutto, ripeto, in aree come quelle che sono attraversate da tensioni. E forse magari anche con l'appoggio di qualcuno all'interno dell'aeroporto, professor Aleggi. Certo, ripeto, in zone dove facciamo, anche se ci avviciniamo ad esperienze nostre di qualche decennio fa, fatalmente in ogni società ci sono delle persone che possono simpatizzare o essere poste in condizioni di dover collaborare anche contro volontà con dei disegni criminosi, quindi che in quella zona così tesa qualcuno possa essere un anello debole, purtroppo ci sta. Questo non vuol dire che sia accaduto, né significa ovviamente sì, condannare, chiaro, in blocco, chiaro. Però gli investigatori sicuramente stanno facendo questo tipo di ragionamento. Non dimentichiamoci che a pochi chilometri da lì c'è la famosa rete di tunnel di Gaza, vero, che attraversa confini, sì, molto ben sorvegliati, quindi non è impossibile immaginare uno scenario in cui qualcuno può essersi intrufolato in aeroporto, diciamo, dall'altra parte, a valle dei controlli di sicurezza, per portare a termine un disegno criminoso, anche perché, sì, le quantità di esplosivo eventualmente necessarie sono minime, siamo nell'ordine del chilo. Del chilo. Quindi non sono cose voluminose e difficili da nascondere. La ringrazio, grazie a Gregory Aleggi, docente di trasporto aereo alla Business School della Luis Guido Carli di Roma, dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Le auguro una buona giornata e saluto Alessio Di Labio, che è un sindacalista della Filcams CGL. Buongiorno Di Labio e benvenuto. Buongiorno a tutti. E siete tra i rappresentanti di coloro che domani sciopereranno, lo abbiamo dato nei nostri titoli. Si tratta dei dipendenti di supermercati, ipermercati, grande distribuzione in genere. Perché scioperate? Scioperiamo superiamo in tutti i settori della grande distribuzione, quelli che fanno capo a Federdistribuzione, quindi i privati, in quelli della cooperazione, comunemente individuati col marchio Coop, in quelli più piccoli di Confesercenti, perché contratti scaduti ormai da 2 anni, trattative lunghe e complicate in cui l'arroganza delle imprese ha raggiunto un limite, la cui risposta che abbiamo deciso insieme ai lavoratori è quella di programmare 2 giornate di sciopero, una appunto domani il 7 novembre e l'altra già prevista per il 19 dicembre 2015. Quindi subito prima di Natale, cioè uno sciopero proclamato evidentemente dove fa più male alle aziende, immagino che la scelta sia stata quella. Dove riesce nella visibilità, dove riesce a far capire alle imprese che le istanze che portiamo sono serie e che abbiamo bisogno di rinnovare i contratti e di dare dignità a chi lavora in questi settori. Quanto chiedete? Noi chiediamo come aumento salariale, diciamo, abbiamo chiuso l'unico contratto di settore che è quello con Confcommercio, dove abbiamo ottenuto nel triennio precedente, che è già parte dal 2014, 2015, 2016, gli 85 euro. Questo è l'aumento che chiediamo, l'aumento che apparentemente qualcuno di loro dà, ma di fatto quello che ci stanno chiedendo indietro in diritti e in salario è superiore a quello che darebbero nel triennio successivo, quindi non considerano il biennio precedente, sul futuro dicono: se vi diamo l'aumento ci date indietro altro sul costo del lavoro, ve lo pagate da soli. La ringrazio, grazie ad Alessio Di Labio della Filcams CGL Nazionale per essere stato con noi. Sentiamo anche l'altra parte, evidentemente, Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Feder Distribuzione, sulla posizione delle aziende. Noi siamo delle industrie del commercio e quindi queste industrie del commercio hanno delle complessità e anche dei livelli di costi inevitabilmente più elevati di quelli del dettaglio tradizionale, e noi riteniamo che questo aumento to cure di 85 euro sia un aumento che intanto supera quelli che sono i livelli di inflazione prevista per i prossimi 3 anni. Chiediamo di poter intervenire in termini di flessibilità, recuperando qualche cosa in termini di tempi lavorati dei lavoratori, parliamo di alcuni minuti al giorno per i lavoratori, e anche in termini evidentemente di sostenibilità economica, senza con questo incidere economicamente su quelli che sono gli stipendi mensili diretti, il salario mensile dei lavoratori, che quindi subirà un aumento come noi vogliamo fare. Così Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Feder Distribuzione. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. Tra l'altro parleremo col procuratore capo di Reggio Calabria, Francesco Cafiero De Rao, perché questa mattina c'è stata un'operazione importante che ha portato a un sequestro di 214 milioni di euro, e poi stiamo cercando di rintracciare, ma insomma in luoghi impervi e difficili da raggiungere, il direttore generale dell'AMAM, che è l'azienda che si occupa delle acque di Messina. Vedremo se ci riusciremo. Intanto ci fermiamo, ci sentiamo la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura nei nostri titoli, la sparatoria in ospedale a Lecce, un detenuto ha rubato la pistola ad un agente, scappato su un'auto dopo aver puntato l'arma alla testa della proprietaria. Da quel che si riesce a capire, si tratterebbe di Fabio Perrone, 38 anni, condannato per omicidio e che si trova in ospedale perché doveva appunto essere sottoposto ad un esame. L'appello del ministro degli esteri olandesi: non andate a Sharm el-Sheikh, non c'è sicurezza. Dalla Gran Bretagna intanto si parla di bomba nella stiva dell'aereo precipitato. Messina è di nuovo senza acqua. Dopo la rottura della derivazione di un altro acquedotto, il governo dichiara lo stato di emergenza e invia l'esercito. E parla Renzi, dice: prima sistemiamo questi altri problemi, ma poi il ponte sullo stretto si farà. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tra poco parleremo dell'operazione anti-ndrangheta di questa mattina, e anzi abbiamo già in linea il procuratore capo di Reggio Calabria, Francesco Cafiero De Rao, ma prima un aggiornamento su Messina, perché siamo finalmente riusciti a raggiungere Luigi La Rosa, che è direttore generale dell'AMAM, l'azienda meridionale Acque Messina S.P.A., che è di fatto il gestore appunto dell'acqua a Messina. La Rosa, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci dà un'idea di che situazione c'è adesso in città, cioè che afflusso di acqua c'è? Guardi, l'afflusso dell'acquedotto del fiume Freddo, come lei sa, è sospeso. È quello lo sappiamo. L'afflusso, il bypass che era stato realizzato dalla società Sicilia Ambiente per l'Alcantara sul fiume Freddo, è saltato nelle prime ore di questa mattina, ha avuto dei danni che la stessa Sicilia Acque è intervenuta per riparare. Quindi la riparazione andrà avanti, si presume, per buona parte della giornata e per la nottata. Quindi prima di domani mattina, le cose. Questo non convoglierà acqua. Non convoglierà acqua. E già, senza fiume freddo, c'era un afflusso di acqua che era del 40-50%, 40-50% in meno, no? Rispetto a quello che dovrebbe essere normalmente. Era un afflusso di acqua ridotto che stava creando qualche problema di distribuzione, più di uno, nelle zone alte della città, cioè per parlarci quelle al di sopra della panoramica, le circolazioni, le zone più alte. La ringrazio. La ringrazio per questo aggiornamento. La Rosa, Luigi La Rosa, direttore generale dell'AMA, l'azienda meridionale Acque di Messina. Cari messinesi, prima di domani mattina l'acqua non tornerà a quel poco che dovevate avere. Francesco Cafiero De Rao, procuratore capo di Reggio Calabria, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno a lei. Un'operazione importante è quella di oggi, perché ha portato anche ad un sequestro di 200 milioni di euro, non poco, e l'arresto di due imprenditori che di fatto erano un braccio operativo dell''ndrangheta, procuratore, abbiamo capito bene? In realtà non è proprio così, perché oggi abbiamo dato comunicazione di un provvedimento di confisca, che è il provvedimento che, a seguito delle indagini svolte da DIA e Guardia di Finanza con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia Reggio Calabria, è stato appunto portato a esecuzione, come dicevo, un provvedimento di confisca per beni di oltre 200 milioni di euro. Le indagini e quindi il sequestro era stato precedentemente eseguito, e oggi abbiamo sostanzialmente il riconoscimento da parte del Tribunale Misure di Prevenzione della sussistenza di quel quadro indiziario circa la contiguità di due grossi imprenditori di Reggio Calabria con la 'ndrangheta di Reggio. Si tratta di Pietro Siclari e Pasquale Rappoccio, questi sono i due imprenditori. Ci sono stati sequestri in realtà, procuratore, non solamente in Calabria ma anche in Lombardia. Cioè, sì, pardon, confisca a questo punto, mi scusi, sì, mi correggo. Confische anche in Lombardia, numerosissimi sono i beni. Lei pensi al numero elevatissimo di società e di beni immobili, sono 9 le società, 220 i beni immobili, 22 i rapporti finanziari. Si tratta anche di società di un grossa consistenza economica oltre che operativa, nel settore alberghiero, nel settore sanitario e in altri settori. Sono due imprenditori particolarmente noti peraltro in Reggio: Rappoccio Pasquale è stato presidente e proprietario della squadra di pallavolo femminile Regina, la Medinex, è stato peraltro socio di altra società sportiva di basket, è stato uno dei soggetti insieme a Siclari che dal punto di vista economico hanno portato avanti numerosissime iniziative di altissimo valore, e questo provvedimento odierno evidenzia come il rapporto di costoro, del Siclari e del Rappoccio con l''ndrangheta di Reggio, in particolare con le cosche Tegano, Condello, Alvaro di Sinopoli, Barbaro di Prati, i libri di Cannavò, siano stati appunto l'elemento che ha agevolato, se non addirittura ha consentito, la conclusione di contratti, di appalti soprattutto. Infatti sono stati numerosi gli appalti conferiti alle società che facevano capo a costoro, proprio grazie al rapporto di sostegno da parte dell'Andrangheta. La ringrazio, grazie per queste spiegazioni a Francesco Caffiero De Rao, procuratore capo di Reggio Calabria, e per la sua disponibilità. C'è il traffico, Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.